lontana all'alba. L'acqua è tutta rosa e nella conca il cielo si disseta, conta per mille bimbe sonnacchiose, fontana quieta, canta fior d'erbe chiare. Io sono come il filtro dell'amore, chi beve non sa più dimenticare. Fior d'erbe chiare. Fontana muta, come un fiore morto, come una bocca che non ha più baci, nella tristezza del giardino assorto. Fontana taci, taci, fontana muta, la donna che m'amava se n'è andata, e tu non canti più, fontana muta. Fontana.